Conti fatti. La storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Il ciclone che si è abbattuto sulla scena mondiale con le prime mosse del nuovo presidente americano Donald Trump induce a riflettere anche sul futuro dell'ordine monetario e finanziario che ha retto, seppur con notevoli scossoni e contraddizioni, dal secondo dopoguerra a oggi. Un invito alla riflessione ci viene offerto dal libro in inglese The Ghost of Bancor, il fantasma del Bancor, saggio sulla crisi, l'Europa e l'ordine monetario globale, edito dal Mulino. Il libro, curato da Antonio Padoaschioppa e Carlo Maria Fenu, raccoglie alcuni scritti pubblicati dallo scomparso ex ministro dell'economia Tommaso Padoaschioppa, riflessioni e spunti che appaiono di grandissima attualità. Il titolo del libro ci porta indietro al 1944, quando il più grande economista del Novecento, John Maynard Keynes, propose in qualità di capo della delegazione britannica durante le negoziazioni che diedero vita al sistema monetario internazionale di Bretton Woods, l'adozione di una unità monetaria internazionale denominata appunto Bancor. La conferenza internazionale che si svolse a Bretton Woods dal 1 al 22 luglio 1944 fissò le regole per le relazioni commerciali e finanziarie tra i principali paesi industrializzati del mondo. 3 settimane di complesse negoziazioni che si conclusero con l'adozione di un testo con il quale venne istituito il Fondo Monetario Internazionale e nacque la Banca Mondiale, con l'obiettivo di tutelare l'ordine monetario globale e favorire la ricostruzione dopo l'immane disastro della guerra. Venne introdotto l'obbligo per ogni paese di adottare una politica monetaria che puntasse a stabilizzare il tasso di cambio a un valore fisso rispetto al dollaro, eletto così a valuta principale. Il piano originario elaborato da Keynes, che prevedeva la creazione di un'unione di compensazione internazionale con una propria moneta, il Bancor, era stato drasticamente rivisto. Si seguì un'altra strada, quella voluta dagli Stati Uniti. L'adozione di fatto del dollaro come moneta internazionale, ancorata inizialmente all'oro, consentì agli Stati Uniti di agire per decenni come inesauribile fonte di liquidità per l'Occidente. Un sistema che resse fino al 1971, quando Richard Nixon annunciò a Camp David la decisione di sospendere la convertibilità del dollaro in oro. Abbiamo in linea Giampaolo Galli, economista, deputato del PD e collaboratore per molti anni di Padoaschioppa ai tempi della Banca d'Italia, quindi persona che conosce assai bene. Buonasera onorevole Galli e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a lei. Allora, parliamo del libro che raccoglie gli scritti di Padoaschioppa, che ci induce, come abbiamo appena illustrato ai nostri ascoltatori, a una riflessione su qual è lo scenario che va aprendosi sull'ordine monetario, finanziario, internazionale, che ha retto, se vogliamo, seppur con numerosi scossoni, contraddizioni, dal secondo dopoguerra a oggi. Che scenario ci attende? Diciamo, questa è esattamente la domanda di fondo che emerge da ogni capitolo del libro di Tommaso Padoaschioppa, il quale da anni e anni si chiede come si fa a creare un ordine monetario mondiale. Naturalmente questa era una domanda che si fecero coloro che crearono il sistema di Bretton Woods nel 1944, sistema che ha retto per un paio di decenni in maniera abbastanza importante, che poi però alla fine è andato in crisi con la decisione di Nixon di dichiarare l'inconvertibilità del dollaro in oro. Nel 1971, allora, nel 71 eravamo, sì sì. Nel 71, sì sì, sì. Poi diciamo la crisi definitiva di quel sistema viene poi nel 73, quando comincia la svalutazione del dollaro. E allora ci si chiede, ma esiste un sistema migliore, un sistema che possa da un lato evitare le crisi degli anni 30, cioè protezionismo e svalutazioni competitive di ogni paese contro ogni altro, quindi con l'effetto alla fine di generare una recessione mondiale, e dall'altro anche i guai che abbiamo sperimentato in questi anni, perché il libro di Padoa-Schioppa è molto una riflessione sulla crisi di questi anni e ad esempio su perché agli Stati Uniti sia stato consentito di generare grandi disavanzi della bilancia dei pagamenti, un eccesso di creazione monetaria, quindi un eccesso di inflazione degli asset come i mutui subprime, senza che ci fossero dei meccanismi di riequilibrio a livello di sistema monetario internazionale. Lei mi chiede che cosa potrà succedere da qui al futuro. Beh, insomma, la considerazione che si deve fare è che mi sembra ovvio fare che questi ragionamenti che si facevano fino a pochi anni fa nelle massime sedi, nel G7, nel G20, su come migliorare il sistema monetario, finanziario e monetario internazionale, oggi sono un po' passati di moda, perché soprattutto diciamo con l'elezione di Trump credo che sarà difficile ragionare in maniera sistematica di un sistema di equilibri mondiali. Potrei sbagliarmi, spero di sbagliarmi, però ho l'impressione che faranno premio le spinte tra virgolette sovraniste, ognuno per sé, e quindi sarà difficile ragionare in termini sistemici di una migliore architettura del sistema monetario internazionale. Potremmo ragionare in Europa forse di come migliorare il sistema monetario che abbiamo in Europa. Questo è un aspetto fondamentale che emerge poi negli scritti di Padoa-Schioppa, che non a caso il libro è un saggio sulla crisi, sull'Europa e sull'ordine monetario globale, quindi il ruolo che l'Europa può o dovrebbe svolgere nel ridisegnare, semmai ci sarà questa eventualità, l'ordine monetario e finanziario globale. Ecco, l'Europa che ruolo può giocare? Ma intanto credo che l'Europa debba trovare il modo di risolvere i propri problemi interni, perché in questo momento l'Europa anche sulla scena monetaria internazionale è piuttosto debole, anche se è più forte su questo fronte che su altri fronti, cioè dal punto di vista monetario esistono oggi tre grandi potenze che sono la Riserva Federale Americana, la Banca Centrale Europea, la Banca del Giappone e la Banca della Cina, la Banca Centrale Cinese. Ciò nonostante noi abbiamo tali e tanti problemi che non ci sarà facile proporre soluzioni a livello globale, e mi immagino che le prossime riunioni del G7 o le varie riunioni a Basilea dei banchieri centrali e dei ministri delle finanze non saranno delle passeggiate. Credo per esempio che se dovessimo avere una forte apprezzamento del dollaro, come qualcuno pensa ci possa essere per via delle politiche di Trump, quindi di espansione del disavanzo pubblico, un po' come è successo nei primi anni dell'amministrazione Reagan, io dubito che Trump si preoccupi delle conseguenze di questo sull'economia mondiale, al più se ne può preoccupare perché questo rende meno competitive le merci americane e peggiora il disavanzo esterno degli Stati Uniti. Noi abbiamo il problema di capire come facciamo a rendere solido e sostenibile l'euro. Il ragionamento di Padoa-Schioppa è sempre stato che l'euro che la moneta senza uno Stato alla lunga non regge. E infatti lo stiamo vedendo. E stiamo vedendo quanto è difficile far sì che regga in assenza di uno Stato e con forti spinte centrifughe anche dal punto di vista politico. Quindi da un lato da un lato sappiamo che per risolvere il problema avremo bisogno di più Europa, dall'altra parte sappiamo che diciamo più Europa è rifiutato da gran parte dell'opinione pubblica europea. Ed è proprio questa la sfida che attende l'Europa nelle prossime settimane. Noi ringraziamo molto l'onorevole Galli per essere stato con noi e per averci aiutato a comprendere meglio il tema di fondo di questo interessante libro di cui vi abbiamo parlato questa sera. Buonasera onorevole, grazie ancora. Grazie a voi, grazie, arrivederci.